voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Each of the five points is a finger. When I close my hand, it becomes a fist. And any time that I wish, I can turn it against you. find your demons your best friend, and we all get it in the end. Apre lirico, chiude sgangherato. Ormai da qualche giorno ho coniato questa definizione che mi è sorta così spontaneamente rispetto al brano che chiude il film Short Bus che vi siete appena ascoltati in apertura dell'ultima parte di Eclettica dell'intero anno 2006. Il brano originariamente è di un artista newyorkese di nome Scott Matthew in una versione completamente acustica che magari prima o poi in Eclettica troverà il suo spazio, ma poi appunto è stato rielaborato in questo modo con la banda finale nella versione cantata da Justin Bond e la Hungry March Band. E Eclettica che sta per apprestarsi a proseguire con un brano che è stato anche oggetto di pillola durante la settimana, che è estratto dall'album di Daniel Treacy, altrimenti noto come The Television Personalities, vi ricordate All the Young Children, per la Domino Records. Però è un singolo questo che prevede tutta una serie di remix estratti dal suo album d'esordio. Questo è il remix di You Kept Me Waiting Too Long, e oltre al long che già vi ho detto ne sono aggiunti altri 8 per un totale di 9. You Kept Me Waiting Too Long, Long, Long, Long, Long, Long, Long, Long, Long. song. You kept me waiting too long. Sono laggiù. Inservienti negri vestiti di bianco, alzatisi prima di me per commettere atti sessuali nel corridoio e lavarlo senza che io possa sorprenderli. Lo stanno lavando quando esco dal dormitorio, tutti e tre imbronciati e pieni d'odio contro ogni cosa. L'ora della giornata, il luogo in cui si trovano, la gente per la quale devono lavorare. Quando odiano in questo modo è meglio che non mi vedano. Striscio lungo la parete, silenzioso come la polvere, con le scarpe di tela. Ma quelli hanno speciali apparati sensitivi, intercettano la mia fifa e alzano gli occhi tutti insieme. Tutti e tre contemporaneamente, occhi splendenti nelle facce nere come lo sfavillio duro delle valvole nella parte posteriore di una vecchia radio. Questo era l'incipit di Qualcuno volò sul nido del cuculo, di Ken Casey. To know I am right. accepted. Assoluta attenzione all'Italia all'interno di Eclettica, questo è sempre, questa è una costante, ma in questo momento è ancora più vero, in quanto ci siamo ascoltati due gruppi italiani in sequenza e ce n'è un terzo come nome italiano pronto qui sul lettore alla mia destra. Allora, in ordine, prima una delle ultime uscite da parte di Urtovox, il trio bolognese di nome Mersenne, Stolen Dresses è il titolo dell'album, invece Clerks è il brano che ci siamo ascoltati, quello che iniziava col trillo di telefono subito dopo la lettura dell'incipit di quest'oggi. Poi Games People Play, questo dovreste conoscerlo, l'etichetta è la Suicide da Public Talks dei The Banshee. Questo per quanto riguarda il passato. Il prossimissimo futuro invece vede il meglio della scena underground che rende omaggio al padre della New Wave italiana. Sto parlando ovviamente di Con Garbo, il progetto che vede assieme tanti artisti suddivisi su due CD, tanti sono, e da questo progetto abbiamo ascoltato Andy, sì, Andy, ex Blue Vertigo, la volta scorsa con Il Fiume, e proseguiamo in questo modo, cioè andando a riascoltare quelli che sono sicuramente i brani più famosi del repertorio di Garbo, rifatti dai nomi della scena attuale italiana. Per esempio, in questo caso, ci ascoltiamo Busta, perché non si può non ascoltare A Berlino Va Bene. Thank you. E così Busta ha rivisto A Berlino va bene da parte di Garbo all'interno di questa compilation che rende omaggio a Garbo. E così Giulio Caperdoni ha chiuso Eclettica, non una stagione ma un anno di calendario. Così si chiude il 2006, una settimana di sospensione e poi si riprende quando sarà il 2 gennaio 2006. Vi aspetto qua sempre alle 22 di sera.